Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Maltempo, tre morti nelle Marche, in ginocchio per i nubifragi, gli allagamenti, neve e collegamenti difficili in Emilia-Romagna. Riprendono gli sbarchi a Lampedusa, quasi 400 arrivi dalle coste nordafricane, Maroni, c'è il rischio di infiltrazioni di Al-Qaeda. Libia e battaglia per il controllo delle città, a Brega Gheddafi rilancia il contrattacco e bombarda ancora. Calcio in vista della corsa scudetto, Milan e Inter si muovono sul mercato, spunta l'ipotesi Kakà in rosso-nero. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24 che apriamo con l'ondata di maltempo che sta investendo in queste ore l'Italia, con gravi disagi e conseguenze soprattutto nelle Marche. Il vento forte ha spazzato via la bora a Trieste, diverse persone sono ferite e ricoverate negli ospedali. Invece la neve sta causando disagi soprattutto alla circolazione in Emilia-Romagna, ma dicevamo la situazione peggiore nelle Marche. Cristina Carpinelli ancora una volta qui con noi per gli aggiornamenti. Sì, situazione abbastanza al limite perché ci sono tre morti, decine di persone allontanate da casa, insomma un'ondata di alluvioni senza precedenti che ha colpito le Marche tra ieri e oggi, ha messo in ginocchio diversi paesi della regione. Le aree più colpite sono quelle di Fermo e Ascoli Piceno. A Casette d'Ete, in provincia di Fermo, un nonno e un nipotino che si trovavano a bordo di un'auto sono stati travolti da un fiume in piena. Ad Ascoli una donna anziana di 85 anni è morta cadendo in un torrente ieri sera, l'hanno trovata solo questa mattina. Le strade, anche quelle più importanti, sono impraticabili, chiuse numerose strade provinciali a causa anche di frane, smottamenti, allagamenti, da poco anche la viabilità di accesso al capoluogo regionale è a rischio di interruzione. La zona più colpita, dicevamo, è Fermo, ma anche la provincia di Ascoli Piceno. Su tutta la regione continuerà a piovere per tutto il giorno e anche a causa della neve che si sta sciogliendo in montagna e dunque si prevede, e questo ce lo dicono dalla Protezione Civile, che il problema aumenterà nel corso delle prossime ore, soprattutto per quanto riguarda le frane. Ce lo ha raccontato, comunque ci ha fotografato la situazione, Antonio Sacca della Protezione Civile di Fermo. La situazione insomma dipende dalle zone e le frane sono molteplici. Il traffico che adesso stiamo cercando di risolvere il meglio possibile. Ci sono delle frane e allagamenti contemporaneamente? Ci sono frane e allagamenti, sì. Stiamo facendo il possibile, i volontari stanno in giro, logicamente anche le condizioni sono un po' avverse. I volontari con la pala non è che può liberare una strada, servono le attrezzature. Però quelle le passa la provincia è al corrente, sanno le segnalazioni perché stiamo passando tutto e stanno cercando di sistemare la viabilità il più possibile. Da quando state lavorando? Da ieri alle 3 è scattato l'allarme, ieri pomeriggio verso le 15. Una situazione che dunque sta incidendo sull'intera regione e che sta colpendo ovviamente anche l'industria, come ci ha raccontato Filippo Schittone, presidente di Confindustria Ancona, sentiamo. È adesso la fase critica, noi abbiamo uno stato d'allerta diciamo su tutta la regione, anche in provincia, che è iniziato ieri pomeriggio alle ore 15. Ci sono certamente già accertati molti disagi sulla viabilità, sia nella città capoluogo, in particolare nella zona diciamo sud della città, che è quella che è caratterizzata anche da maggior densità di insediamenti produttivi. Quindi disagi perché le strade sono chiuse, quindi traffico in tilt, c'è già qualche problemino di esondazione. È ovvio che più ci spostiamo a sud più andiamo nella situazione anche fluviale delicata, quindi Recanati, le zone di Loreto. E grazie a Cristina Carpinelli per questa pagina di cronaca sulla situazione maltempo, avete sentito, molto grave soprattutto nelle Marche, e nelle prossime ore purtroppo le notizie non sono buone perché continuerà a piovere, per un miglioramento bisognerà attendere fino a domani sera. Abbiamo sentito Flavio Galbiati del centro Epson Meteo. Giornata critica anche quella di oggi sull'Italia, anche se per la verità l'estremo sud in Sicilia il tempo è decisamente migliorato rispetto alle forti piogge di ieri, qualche rovescio potrà interessare però ancora il settore occidentale dell'isola e la Campania. Oggi ancora piogge invece purtroppo sulle Marche, piogge che interesseranno a carattere rovescio anche il Lazio e la Sardegna, qui abbastanza insistenti. Per quanto riguarda l'altro elemento di criticità di oggi, la neve, nevicate che hanno interessato anche in pianura l'Emilia Romagna, continueranno nelle prossime ore. Vi anticipo che anche stanotte, nelle prime ore di domani, c'è il rischio di neve a quote molto basse, ancora in Emilia ma anche sul basso Piemonte. Ultima osservazione, i venti sono davvero molto intensi, specialmente la bora sull'Alto Adriatico, i mari quindi risultano agitati o anche molto agitati. E ci sono le dichiarazioni del leader libico Muammar Gheddafi. Poco fa, parlando in un discorso televisivo, Gheddafi ha detto: nelle mani del popolo libico c'è il futuro della Libia. E poi ha detto anche: dal 1977 non ho più potere politico in Libia. Un discorso, quello di Gheddafi, che è stato interrotto dagli slogan di sostegno dei sostenitori sempre di Gheddafi, che erano presenti in quel momento. Poi, anche riferito all'Italia, ha detto Gheddafi: abbiamo costretto l'Italia a scusarsi per il suo colonialismo, costringendo Roma a pagare i danni. Della Libia parleremo tra poco, più avanti. Adesso il fronte italiano, perché nella notte ci sono stati altri sbarchi, quasi 400 persone dalle coste nordafricane sono arrivate a Lampedusa, e oggi il ministro dell'interno Roberto Maroni ha fatto il punto in un'audizione in commissione proprio su questa situazione. Ha parlato anche di infiltrazioni terroristiche. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Alessio. È così, l'Italia invierà una missione umanitaria in Tunisia per dare sostegno ai profughi che proprio dalla Libia stanno premendo sulle sue frontiere. La decisione è arrivata ieri sera. Il governo stima che in Libia ci siano circa 1,5 milioni di clandestini entrati dai confini meridionali, ha detto oggi Maroni, il ministro degli interni, secondo il quale non appena la situazione lo consentirà 200.000 di queste persone in fuga potrebbero puntare verso l'Europa, quindi verso anche il nostro paese, numeri da emergenza umanitaria, secondo Maroni, che assieme al nostro ha sollecitato anche un intervento della comunità internazionale, ma sentiamolo. L'Italia poi ha un ruolo fondamentale perché può essere il capofila di un'iniziativa internazionale, in particolare di un'iniziativa europea, e la missione umanitaria che abbiamo deciso va esattamente in questo senso. Noi abbiamo mostrato che cosa deve fare la comunità internazionale, oltre che minacciare sanzioni, deve intervenire per mostrare l'aspetto di amicizia con questi cittadini, con questi popoli che fuggono da scenari di guerra, e dimostrare che siamo pronti a intervenire per sostenerli. Maroni, come dicevi, ha poi ribadito le sue preoccupazioni sui rischi di possibili infiltrazioni di terroristi islamici nei paesi del Maghreb. Sentiamo ancora il ministro. Una situazione di permanente instabilità come c'è in Libia, di transizione come c'è in Egitto e di scarso controllo come c'è in Tunisia, di fronte a un'Europa che minaccia solo sanzioni, il rischio è che si aprano spazi, forse non per le organizzazioni terroristiche, ma certamente per chi rappresenta il fondamentalismo islamico ed è fortemente presente, pensiamo ai Fratelli Musulmani, questo spazio ci sia. Maroni infine ha affrontato anche il problema del rimpatrio dei tunisini, ha detto che il nostro governo sta cercando di rinegoziare l'accordo con le autorità di Tunisi, autorità che oggi accettano di accogliere solo 4 connazionali al giorno, se si considera che in queste settimane sono arrivati circa 6.000 tunisini, con questo ritmo ci vorrebbero 3 anni per rimpatriarli tutti, ha sottolineato il ministro. Per ora è tutto, Alessio. Grazie Andrea, e allora, come dicevamo, nella notte nuovi sbarchi a Lampedusa, sentiamo. Dopo una pausa di una settimana dovuta alle cattive condizioni del mare, questa notte è approdato sull'isola un barcone con 347 persone e un altro sbarco si è registrato anche a Linosa, dove i carabinieri hanno bloccato 22 extracomunitari. Questa volta la traversata è stata anche documentata da 2 giornalisti di una televisione tedesca saliti a bordo con una telecamera. Gli ultimi arrivati si aggiungono ai circa 210 immigrati già presenti nel centro di accoglienza di Lampedusa, che torna a riempirsi e fa i conti con l'emergenza più massiccia della sua storia. Il dottor Alberto Guasconi, medico per gli immigrati sull'isola. Mi sembra che comunque continuino a sbarcare nonostante il maltempo. Ah sì, su questo non c'è dubbio. Tutti i giorni ci sono arrivi. L'impressione è che comunque appena le condizioni condizioni meteorologiche lo permetteranno, ce ne saranno altri. In aumento? È possibile. Quali sono le condizioni di salute delle persone che arrivano? Normalmente stanno bene. Come è allestito il centro d'accoglienza? È adeguato? Sì, il centro d'accoglienza è adeguato come struttura e poi comunque dopo l'arrivo, dopo qualche giorno, normalmente vengono trasferiti in altre strutture. E ieri la Procura di Agrigento ha confermato l'iscrizione nel registro degli indagati per i circa 6.000 immigrati sbarcati che dovranno rispondere del reato di immigrazione clandestina. Vanessa Quinto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è proprio così, c'è da registrare una sorta di attivismo della Procura di Agrigento sul fronte dell'immigrazione, perché come sentivamo la Procura appunto di Agrigento ha indagato 6.000 profughi arrivati nella settimana scorsa per immigrazione clandestina, ma c'è un'altra vittima illustre dell'attivismo appunto dei magistrati agrigentini, è il sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis, che è indagato per istigazione all'odio razziale e abuso di autorità. Nel mirino le ordinanze firmate dal sindaco che vietano l'accattonaggio e comportamenti non decorosi. De Rubeis si difende così al microfono di Paolo Panceri. Sono meravigliato e scandalizzato per l'accusa di Lampedusa, il popolo di Lampedusa è stato d'esempio per tutti per l'accoglienza verso i fratelli immigrati. Guarda caso arriva solo al sindaco di Lampedusa e l'iscrizione nel registro degli indagati per odio razziale. Tutte le altre ordinanze che fanno i sindaci in Italia, e creando anche qualche ghetto, ahimè, quelle sono legittime, quella che fa il sindaco di Lampedusa per la procura di Agrigento è legittima. E come abbiamo detto più volte in questi giorni, la crisi nordafricana ha un risvolto economico importante. Sotto pressione tornano ancora una volta i prezzi delle materie prime, del petrolio in particolare. Deborah Rosciani, torniamo in borsa. Buongiorno. Sì, Deborah. Buongiorno. I prezzi del petrolio sono in rialzo da questa mattina sui circuiti asiatici, lo sono per la verità in un trend inarrestabile ormai da diverse settimane. Il WTI, questo greggio di riferimento americano, ha di nuovo superato la soglia dei $100, il Brent a Londra 115,82. La prima ripercussione, quella che vedono i consumatori, è quella sui prezzi dei carburanti. Oggi nuova ondata di rincari da parte di tutti i grandi gestori, e in Campania cosa è successo? Che i prezzi consigliati in modalità servito hanno superato quota 1,60 euro al litro. Questa situazione sulle materie prime genera preoccupazione fra gli investitori. Anche i numeri 1 delle banche centrali stanno cominciando lanciando delle serie preoccupazioni sul tema dell'inflazione, preoccupazione ribadita ieri sera dal numero 1 della Federal Reserve, Ben Bernanke, e già immaginiamo che domani possa essere confermata dalla Banca Centrale Europea, da Trichet, nella riunione del direttivo mensile, che tra l'altro dovrebbe anche stabilire che cosa potrà fare nei prossimi mesi sui tassi di interesse. Le borse sono in calo sulla scia di tutto questo, questa mattina ribassi di un punto percentuale in media fino a poco fa, adesso vedo che la situazione sta migliorando, meno 0,6% Parigi, meno 0,5% Francoforte, Londra meno 0,4%, Milano meno 0,7%, l'ultima annotazione, l'oro ieri ha toccato un nuovo record assoluto a $1,432 l'oncia. È tutto. Grazie Deborah, e vi ricordiamo che sul tema dal versante americano torneremo alle 13:45 con Mario Platero. Adesso la pagina politica, appuntamento oggi pomeriggio in aula a Montecitorio per il voto di fiducia sulla risoluzione di maggioranza relativa al federalismo municipale. L'opposizione resta molto critica, parla di schiaffo al Parlamento per questa ennesima fiducia. Il testo approderà poi per il via libera definitivo al Consiglio dei Ministri di domani, e poi tornerà alla firma del presidente Napolitano. Sul fronte della giustizia e dei processi a carico del Premier, invece, mentre la maggioranza chiede alla Camera di sollevare il conflitto di attribuzioni contro la Procura e il giudice di Milano sull'inchiesta Ruby, emergono nuove intercettazioni. Lo scorso dicembre Ruby cercava casa sui 350.000 euro, nel caso anche di più. Tanto me la regala zietto, avrebbe scritto in una conversazione via SMS con un agente immobiliare. Messaggi finiti agli atti del processo che vede imputato Silvio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile, insieme a 9 nuove intercettazioni telefoniche che ribadiscono, scrive il Corriere della Sera, le aspettative della ragazza marocchina di ricevere soldi dal fronte Berlusconi in cambio del proprio atteggiamento processuale. In una in particolare, risalente al 28 ottobre, Ruby evoca con un'amica una cena con Fabrizio Corona e Stefano Bettarini e dice: «Appena faccio i 18 anni, Silvio mi darà 6 milioni di euro per nasconderlo da tutta questa vicenda». Interpellati dal Corriere sia il fotografo che l'ex calciatore hanno però smentito di aver mai cenato con lei. Ma sono molti i passaggi in cui nelle altre intercettazioni agli atti, in una serie di racconti non privi di contraddizioni, la ragazza si vanta con persone diverse di aver già ricevuto una cifra che, a seconda dei casi, varia dai 4,5 ai 6 milioni di euro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 18 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato dell'ondata di maltempo che ha investito l'Italia. La Bora ha fatto diversi feriti a Trieste, nevica in Emilia-Romagna con difficoltà per i collegamenti, la situazione peggiore nelle Marche, in ginocchio per i nubifragi e gli allagamenti, e ci sono anche 3 vittime. Abbiamo parlato anche degli sbarchi che sono ripresi dal Nord Africa verso Lampedusa, quasi 400 persone. Il ministro dell'Interno Maroni alla Camera parla del rischio infiltrazioni di Al-Qaeda in questi flussi migratori. Adesso tutte le altre notizie. Cominciare dalla Libia, dove andiamo con gli inviati del Sole 24 Ore che si trovano proprio in Libia. Prima però una notizia che riguarda l'Unione Europea, perché la Commissione Europea fa sapere che la protezione civile europea è pronta a muoversi per gestire i flussi migratori egiziani alla frontiera con la Tunisia, e l'Unione Europea stima 77.000 rifugiati alla frontiera tunisina e 70.000 rifugiati invece dall'altra della frontiera egiziana. Vediamo allora qual è la situazione al confine tra la Libia e la Tunisia con il nostro inviato Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. In queste ore hai raccontato i flussi e quello che sta accadendo alla frontiera, hai parlato di scenari biblici. Sì, oggi alla frontiera c'è una situazione leggermente migliore, non c'è più quello scenario biblico che si vedeva nella terra di nessuno fra Libia e Tunisia. È come un'onda, l'onda ora si è spostata nel grande campo profughi delle Nazioni Unite e da lì si sta spostando verso il porto di Zarzis, dove migliaia e migliaia di egiziani cercano di salire sulle navi messe a disposizione dal loro governo. Ci sono ora rimasti più indietro gli asiatici. In sostanza le autorità libiche stanno cercando di prendere accordi con tutte le ambasciate dei vari paesi, perché appunto queste persone entrino in Tunisia ma poi ripartano subito per il loro paese. Il problema per tanti paesi africani, i quali non hanno ambasciate, i quali non hanno alcun contatto diretto e sono ancora dentro la Libia, si parla secondo le Nazioni Unite, l'alto commissariato per i rifugiati, si parla di almeno di 11.000 persone, ma sicuramente molte di più. Sono persone rimaste in Libia che non possono uscire nemmeno di casa perché vengono scambiati per persone al soldo dei nemici del regime, a seconda di dove vivano, e che non hanno la possibilità nemmeno più di uscire di casa perché rischiano di essere arrestati. La situazione qui invece in Tunisia sta andando lentamente, molto lentamente verso il miglioramento, ma siamo sempre in una situazione di alta emergenza. Grazie allora Ugo Tramballi, e lasciamo un fronte libico per trovarne un altro. Ci colleghiamo con Roberto Bongiorni, perché oggi Brega è stata teatro di combattimenti e tra l'altro sentiamo dei rumori sospetti, Roberto, nella zona controllata dai ribelli. Ci senti? Buongiorno. Sì, sono all'ultimo avamposto dei ribelli, si sta sparando, i ribelli si sono ritirati, hanno assestato 10 batterie antiaeree, 3 carri armati di Del Vecchio, e stanno sparando in direzione del campo. Stamattina c'è stata l'offensiva delle forze di Gheddafi, hanno ripreso il controllo di 2 centri, Ras Lanuf, il primo terminale petrolifero della costa nordafricana, e Brega, la città da cui abbiamo fatto un collegamento con Radio 24 2 giorni fa. Insomma, Saddam Hussein ha offerto una dimostrazione di forza. Se Ras Lanuf è circondata ma sta resistendo, Brega ormai è caduta, il fronte delle forze dell'opposizione, quindi si sposta indietro a 170 chilometri, dove ci sono 2-3 mila persone, soldati, giovani ribelli, che però sono dotati di un armamento che mi appare abbastanza inadeguato per affrontare una controffensiva dell'aviazione libica. Grazie allora anche a Roberto Bongiorni. Come avete sentito, si spara e si sentiva anche attraverso il collegamento telefonico in queste ore nelle città che sono al confine tra la zona controllata dalle milizie fedeli a Gheddafi e invece i rivoltosi. E c'è da dire anche che Gheddafi poco fa ha tenuto un discorso alla televisione nel quale ha parlato di Al-Qaeda, cioè Al-Qaeda dietro ai disordini in Libia, ha detto in questo discorso televisivo, e poi Gheddafi ha anche detto che il futuro della Libia è in mano al popolo libico. Poi ha parlato anche dell'Italia, ha detto l'Italia l'abbiamo costretta a scusarsi con il suo colonialismo costringendo Roma a pagare i danni. E chiudiamo dunque qua questa lunga pagina dedicata alla crisi in Libia. Ci spostiamo in Spagna, parliamo di un'altra questione, la crisi economica, perché c'era già naturalmente, ma ora è arrivata anche quella dei prezzi del petrolio. Come abbiamo già parlato, in Spagna viene varato un piano per il risparmio energetico nazionale. Sentiamo di che si tratta. Dal 7 marzo la velocità massima consentita in auto sarà 110 km all'ora. Vamos a ir más despacio. Così, dice il vice premier Rubalcaba, risparmieremo il 15% di benzina e l'11% di diesel. Al prezzo attuale, sostiene, sarà un risparmio di 1.400 milioni di euro all'anno. Per inciso, la multinazionale petrolifera spagnola Repsol non solo incassa, ma pubblicamente approva l'iniziativa del governo, che prevede a suo danno anche l'incremento della quota di biocarburanti utilizzati in Spagna. Punto secondo, per incentivare il trasporto pubblico, taglio del 5% dei prezzi dei biglietti dei treni a breve e media percorrenza. Protestano i grandi comuni, però, chiedendo una compensazione della quota che verrà loro a mancare con la riduzione delle tariffe. Punto terzo, riduzione delle spese per l'illuminazione stradale tramite sostituzione completa delle lampade vecchie con quelle a basso consumo. Una rivoluzione che presto, assicura Rubalcaba, toccherà anche agli edifici pubblici e a intere città. L'Italia è il principale consumatore del petrolio libico, la Spagna è solo il quarto, ma talvolta, come si dice, è meglio averne paura che buscarne. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora invece parliamo del mondo della scuola, che è di nuovo in mobilitazione. Ieri in tanti istituti, con SMS ma anche semplice passaparola, è stato osservato un minuto di silenzio. Proteste scatenate anche dalle ultime critiche del Presidente del Consiglio. Una scuola pubblica, ha detto Berlusconi, da lasciarsi alle spalle perché portatrice di valori contrari al sentire delle famiglie italiane. Parole che, aggiunte alle pesanti critiche agli insegnanti, hanno fatto partire una serie di iniziative non solo simboliche che culmineranno il 12 marzo in coincidenza con la manifestazione a difesa della Costituzione promossa dall'associazione Articolo 21. E proprio sulla scuola la nostra Elisabetta Fiorito ha intervistato la leader della CGIL, Susanna Camusso. A scuola bisogna dire due cose: questo governo ha fatto un'operazione sia sul piano delle risorse alla scuola, sia sul piano del valore della scuola, che sul piano del lavoro degli operatori della scuola, che è stata di progressiva riduzione e anche progressiva, come dire, messa in discussione del suo valore. E se c'era qualche dubbio, la dichiarazione dell'altro giorno del Presidente del Consiglio hanno tolto qualunque equivoco, perché si è sostanzialmente detto che gli studenti hanno come unica funzione quella di venire inculcati, perché sono degli esseri assolutamente incapaci, che gli insegnanti non sanno fare il loro mestiere, con un disprezzo che non è mai ammissibile da parte di un uomo di governo. E lasciamo perdere il silenzio della ministra addetta, e credo che in realtà abbia detto in questa forma il suo vero pensiero, cioè che sarebbe utile che la scuola nel paese non ci sia, perché così c'è meno democrazia e soprattutto non c'è la possibilità e la condizione perché le persone si ribellino. E chiudiamo con il calcio, in vista di un lungo derby Milan-Inter per la conquista del campionato, un derby che si giocherà anche sul mercato. Sul fronte rosso-nero rispunta l'ipotesi Kakà. Lunedì sera, mentre il Milan triturava il Napoli, ci aveva pensato Bosco Leite, papà e procuratore di Kakà, a rispondere con un sibillino "vedremo" a chi gli chiedeva a San Siro se il figlio sarebbe mai potuto tornare dall'esilio madridista per vestire ancora la maglia rossonera. E ieri Adriano Galliani ha detto parole che sembrano tutto tranne che una porta chiusa. Papà di Kakà è un amico, vediamo, ma non c'è nessuna ipotesi al momento percorribile. Non lo so, vedremo, adesso pensiamo a questo campionato. Ma più che le parole, per Galliani parla il movimento sincopato del collo, che tradisce una certa eccitazione, e quegli occhi furbetti e il sorriso appena accennato, che fa intendere più di quel che dice. Senza contare poi che al Real il feeling tra Mourinho e Kakà non è davvero mai nato. Insomma, l'affare bolle in pentola. Sicuro che passerà per le mani di Mino Raiola, che regge i figli di Ibrahimovic, Robinho e Balotelli, e di Ernesto Bronzetti, super consulente rossonero sul mercato spagnolo. Appuntamento a fine stagione e noi qui a gongolare di gioia. Abbiamo trovato il nuovo tormentone. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 28 minuti è tutto per questa edizione di GR 24. Vi lasciamo all'Italia in controluce. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.